sentire bruciare la pelle, di tanto gridare ti amo alle stelle. E poi per tradire la tua fedeltà mi sono giocato la felicità. Di tanto dir bene sapendo che male, di tanto spiare chi scende e chi sale, mi sono scordato la vita e l'amore e le piccole cose che avevo io in cuore. Non si vive così, non si vive così. Non si vive così, non si vive così. Di tanto viaggiare per cielo e per mare, di tanto vedere per poi non guardare, e pur di arrivare al numero uno, non penso che a me e non credo a nessuno. Di tanto cambiare la notte col giorno, di tanto avvisare stasera non torno, mi sono scordato la vita e l'amore e le piccole cose che avevo io in cuore. Non si vive così, non si vive così, non si vive così, non si vive così. Di tanto dormire in un letto straniero, di tanto sognare un sogno non vero, mi sono venduto quest'anima mia, ma solo ai transistors e alla discografia. Di tanto accettare chi conta e non vale, di tanto seguire un mondo banale, mi sono scordato la vita e l'amore e le piccole cose che avevo io in cuore. Non si vive così, non si vive così, non si vive così, non si vive così. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Andando como va, soy ya que finirá. Vicinima così, lontani. Poi che ogni donna sa le sue opportunità, mi dici amore mio rimani. Ho amato tanto, sai, che una volta in più non ne sarei più io capace. Non torno indietro, no, dovrò lasciarti e non mi piace. A meno che accetti la mia vita un po' così con me e uccidi l'egoismo che adesso c'è. A meno che tu credi in me. A meno che non ritorniamo più su chi ha sbagliato in che una separazione in fretta, ma perché fa male a me, fa male a te. Adesso per di più mi sento dire tu non vuoi pensare al mio domani. Sei per la parità, ma in questo caso qua ti affidi solo a queste mani. Ho amato tanto, sai, che una volta in più non ne sarei più io capace. Non torno indietro, no, dovrò lasciarti e non mi piace. A meno che accetti la mia vita un po' così con me e uccidi l'egoismo che adesso c'è, a meno che tu credi in me. A meno che non ritorniamo più su chi ha sbagliato in che una separazione in fretta, ma perché fa male a me, fa male a te. Fa innamorarsi alla mia età, perché tu sei il mare e io sono il cielo e non ci incontreremo. E io mi domando la mia vita che sarà, perché son cambiato, perché sono strumento

si farà l'americana l'ho messa in piedi, fino ai primi di settembre sto con te. Cosa mai ci posso fare se non penso a lei? Sogni strani e rimorsi non ne ho. Ogni giorno un'emozione che non cambierei. Ma finite le vacanze con chi andrò? Amo te, amo te. Come te lo devo dire che amo te? Amo te, amo te. Come te lo devo dire, stai con me, stai con me, stai con me. Amore clandestino chi lo tiene più? E la faccia di tornare chi ce l'ha? E da quando ha saputo che ci sei anche tu? Di accettare in mezzo uomo non ne va. Amo te, amo te. Come te lo devo dire che amo te, amo te, amo te. Come te lo devo dire, stai con me, stai con me, stai con me. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Un monte fra noi. Mi vuoi diverso e passarlo non vuoi, volando come io volo, perso coscienza del suolo, mi sono perso anche te. Che rabbia mi fai, tu torneresti ma non tornerai, vivendo come viviamo, con i problemi che abbiamo, verrei la sera da te. Chi mi aspettava non è più là, chi ti accompagna di te che sa, per far l'amore io vengo via, non me la sento a casa mia. Chi mi aspettava non è più là, alla stazione lei non verrà. Nel fondo spera che cambi, cambia ben poco anche una di. Scordare mi vuoi? Fai mattino con gli amici tuoi, a tutti mostri più grinta da femminista convinta, ma sei a terra per me. E dopo le sei, quando mi accorgo che tu non ci sei, l'ufficio l'aperitivo, se ritardavi morivo, di certo io più di te. Chi mi aspettava non è più là, chi ti accompagna di te che sa, per far l'amore io vengo via, non me la sento a casa mia. Chi mi aspettava non è più là, alla stazione lei non verrà, nel fondo spera che cambi, cambia ben poco anche un addio. Chi mi aspettava non è più là, chi ti accompagna di te che sa, per far l'amore io vengo via, non me la sento a casa mia. Chi mi aspettava non è più là, alla stazione. La nostra buona educazione ci ha fatto stare troppo tempo insieme. Pur di salvare le apparenze, senza provare neanche un po' di bene. Tornare a casa per sentire forte il bisogno di partire presto. Ma per i figli trattenersi in ogni frase come in ogni gesto. A non sapere dire a tempo non ti amo più, e fare finta di volare quando si va giù. La nostra buona educazione ha congelato ogni momento bello. Persino il sesso senza amore ultimamente era sempre quello. La nostra buona educazione non fa amici e tanto meno amanti. Bisogna farsi anche del male per poi poter tirare bene avanti. A non sapere dire a tempo non ti amo più, e fare finta di volare quando si va giù. Sapere dire a tempo non ti amo più, e fare finta di volare quando si va giù. La nostra buona educazione ci ha fatto stare troppo tempo insieme. Pur di salvare le apparenze, senza provare neanche un po' di bene. Tornare a casa per sentire forte il bisogno di partire presto. Ma per i figli trattenersi in ogni frase come in ogni gesto. La nostra buona educazione ha congelato ogni momento bello. Persino il sesso senza amore ultimamente era sempre. lo quiero, sé un adiós. Os estáis solo probándome. Dime lo que quiero, sé todo en mí. Puesto silencio, no negate. Cuando se ama, dame. Cordiver si no quise sentir tu corpo leggero e pensi uguale a lei. Quando si ama davvero ora di persino di sé, voli al settimo cielo e parli solo di me, e parli solo di lei. Dime lo quiero, sei il torto è mio, questo silenzio non è da te. Quando si ama davvero, scordi persino. Senti il tuo corpo leggero e pensi uguale a lei. Quando si ama davvero, scordi persino chi sei. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Passata, abbracciata, tu mi hai visto e non ti sei manco girata. Cosa importa se ho sbagliato? Io continuo come un pazzo innamorato. Vorrei stare al posto suo e non per gioco. Io saprei riconquistarti poco a poco. E che a forza di ignorarmi sei riuscita a farti amare perché scappi dalle dita.

fai così, se dici no vuol dire sì. Buongiorno io. Ma non so più che senso a parlare di serenità. Se far l'amore sai che dà il gusto della novità. Perché nessuno cambierà. Che strano gioco questo qua, soffrire di felicità. Solo se tu non guardi me io sento di volere te. Buongiorno tu, buongiorno io. E anche tu mi fai così, se dici no vuol dire sì. Per me ieri amore mio, oggi mi sento un mezzo Dio. Mi ami tu, ti odio io, un giorno tu,